Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, già che ci siamo, buon compleanno Renzo Olivieri, presidente degli allenatori italiani, che oggi compie 70 anni. È una giornata di campionato, l'ultima infrasettimanale di questa stagione. Si è aperta con una sorpresa, il pareggio della Lazio a San Siro contro un Milan certamente anche sfortunato, ma non nella migliore delle sue versioni possibili. Allegri aveva detto alla vigilia che allo scudetto mancavano 11 vittorie. Secondo me sono quelle frasi che, se stai pensando di puntare qualche euro sulla partita, ti suggeriscono un segno diverso dall'uno, no? Come in effetti poi è stato, anche proprio per una discreta collaborazione della sfortuna. Poi ci sono molti altri aspetti da sottolineare. Ho già trovato una serie di messaggi e di mail sull'argomento, ma intanto comincerei a ripassare quello che è successo con il commento iniziale proprio di Allegri. Ma credo che il primo tempo abbiamo avuto un po' di fretta, siamo stati un po' frettolosi, abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi. La Lazio si è difesa molto bene, credo che l'abbia mai tirato in porta. E noi abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli, e quella più clamorosa con il doppio palo. Però credo venivamo da 6 partite giocate una volta in 3 giorni, quindi i ragazzi sono ben comportati, hanno fatto una buona partita. A tratti siamo stati un po' confusionari, però a tratti abbiamo fatto delle buone cose. E credo che alla fine meritassimo la vittoria, però questo è il calcio, bisogna accettarlo. Però c'è una nota positiva, che per la terza partita che non prendiamo gol, e questo sicuramente è una bella notizia. Questo è un dato, sì, questo è vero, un dato positivo. È difficile prendere gol se gli avversari non tirano in porta, e mi pare che nel caso di ieri sera sia proprio una di quelle cose lapalissiane. La Lazio ha tirato in porta, mi pare, al secondo minuto. Una volta c'è stata quella deviazione di Bonera sul tiro, è stato bravo Abbiati a bloccarlo, dopodiché per gli altri 88 più recupero si è astenuta. Poi c'era da parlare di come si è comportato il centravanti della Lazio, Kozak, magari, come dice Reia, senza cattiveria, però magari, insomma. Ne parliamo magari più avanti. Prima sentiamo il commento di un giocatore che secondo me era stato a lungo trascurato nella difesa del Milan e nei ricambi possibili della difesa, cioè Iepes, ma da quando l'hanno chiamato in causa mi pare che la sua parte la faccia. Iepes. Credo che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo proposto, però il primo tempo abbiamo avuto un po' di fretta, no, in arrivare a fare le cose. Però è così, credo che abbiamo fatto occasione di gol, tante volte gli attaccanti non fanno vincere, allora siamo un gruppo, quando vinciamo siamo tutti, quando si pareggia anche siamo tutti. Credo che hanno fatto un grande sforzo difensivo anche, allora si vede che abbiamo giocato tante partite nelle ultime giorni. No, e dobbiamo stare tranquilli, continuare a lavorare, a pensare ogni partita, che in ogni partita dobbiamo fare punti. No? Sì, credo che questo è merito anche della squadra, che mi aiutano, io provo di aiutare, e ringrazio anche tanti le tifosi che della prima partita hanno stato sempre molto calorose con me, allora sono contento per loro. Caloroso, simpatico anche Iepes. Ha parlato di gruppo, ecco, io credo che sì, certo, il gruppo ci vuole, indispensabile, ma se parliamo di Milan il gruppo c'entra fino a un certo punto, nel senso che si è visto ancora ieri sera a maggior ragione. C'è un totem, no? C'è un leader assoluto, c'è un totem, c'è uno che quando tocca la palla qualcosa succede, quasi sempre di positivo. Ieri sera una cabala arcana gli ha fatto colpire, insomma, ha fatto colpire a quel tiro 2 pali interni consecutivi, però è indubbio che ogni sua giocata corrisponde a o un'intenzione giusta o qualcosa che si realizza di buono. Da una parte, questo è quello che conta. Non vorrei che cominciasse a contare però anche il suo atteggiamento in campo nei confronti dei compagni, perché giocare con Ibra di fianco, certo, forse da casa lo guardi con le telecamere, zoomano su di lui subito dopo ogni errore di un compagno o comunque ogni giocata che non va a buon fine, e può darsi che i compagni non sentano, no, quello che noi invece da casa si ricava con i labiali o si vede con gli atteggiamenti o con gli sbuffi. Però credo che a gioco lungo questo dia fastidio, dato che questo è un difetto, una caratteristica, secondo me è un difetto che Ibrahimovic ha sempre avuto. Non so come dire, lo sminuisce un po' come, a parte le piazzate all'Inter degli ultimi tempi, ma lo sminuisce un po' come campione. Io ricordo Maradona, per esempio, in Argentina, quando vinse un mondiale trascinando l'Argentina anche un po' di più di quello che Ibrahimovic oggi sta trascinando il Milan. E aveva di fianco qualche bel pippone anche lui allora, no, Maradona? Però sinceramente atteggiamenti così non ne ricordo. Cioè il grande campione, più un suo compagno sbaglia, più lo incoraggia semmai, o magari fa finta di niente se non se la sente. Ma a ogni giocata la pagella di Ibrahimovic, secondo me, a gioco lungo potrebbe anche dare, cominciare a dare un po' fastidio. E vi dicevo del capitolo Kozak, lo introduce un'intervista ad Antonini, che per buona parte del primo tempo è stato il più vivace, il più intraprendente del Milan, e questo già vi dice che primo tempo abbia giocato il Milan. C'era l'attaccante loro che ha tutta la partita che alzava gomiti, tirava, ne ha fatti fuori due, quindi solo l'arbitro forse non l'ha visto, però ormai la partita è finita e non fa niente. Bonny ha preso una botta, mi sembra, lo zigomo, invece le grottaglie erano un pochino più sul collo, un trauma cranico, un trauma cervicale, quindi era un pochino più pericoloso, però non penso ci siano problemi nel recupero, almeno di Bonny era per domenica, quindi emergenza c'è, però ci sono i giocatori per colmarla. Ma le grottaglie, per fortuna, nemmeno lui ha riportato conseguenze serie, sia pure dopo una notte di controllo in ospedale. Però certo la sua presentazione è stata ufficiale, che era prevista per lunedì, oggi è stata annullata per ragioni, diciamo, pure estetiche anche. La mia domanda è: cosa deve fare un giocatore per essere espulso? Cioè, l'ho pensato almeno tre volte ieri sera. Se lo domanda per esempio Giorgio Torelli, leggo la sua mail, mi pare che dopo 15 falli, due avversari mandati all'ospedale e almeno altri 10 nel saltare con i gomiti alti, nel gioco del calcio si possa finire anzitempo la partita. Adesso magari i numeri non sono esattamente questi, perché un numero così abnorme di falli non l'ha fatto, però insomma, è anche vero che così non si può giocare a pallone. Forse ha ragione Reia, che non c'è stato niente di volontario, di premeditato, salvo l'ultima, perché quando le grottaglie si inginocchia per colpire quel pallone di testa, cosa che ha tre metri, i tre metri li colma per dargli una ginocchiata. Io credo che questo giocatore andasse espulso per somma di ammonizioni già prima. Il fatto che gli sia stata perdonata anche quella mi ha lasciato sinceramente perplesso. Il commento di Reia. Per fare i punti qui a San Siro contro il Milan bisogna avere sicuramente un po' di buona sorte. E diciamo, quando ho visto i due pali ho detto, beh, insomma, ci è andata bene. Ma niente, abbiamo chiaramente sofferto, la qualità del Milan la conosciamo. Abbiamo fatto una buona partita sul piano difensivo e purtroppo ovvero parecchi infortunati, soprattutto a metà campo in avanti, anche per dare un po' di ricambio, perché si poteva riproporre qualche cosa in più, soprattutto a 20 minuti alla fine, per cercare di fare qualche contropiede, di fare qualche ripartenza. Però 8-11 avevamo giocato due giorni fa, è chiaro che il recupero diventa difficile giocare contro un colosso come il Milan. Andiamo a casa con un punticino che ci fa sicuramente molto bene. Lo stiamo perdendo, scrive Sergio da Corsico e si riferisce a Pato. Beh, insomma, io non esagererei, però è anche vero che ci sono, cominciano a essere non tante magari, ma alcune le occasioni in cui aspetti questo giocatore, dici questa è la sua partita e poi invece non è la sua partita, e insomma, e con quel talento non è il migliore dei segnali possibili. Primo intervallo di oggi, le strade. Ma non dovevano essere tempi di fair play finanziario? La domanda è firmata Roberto Zona, sintetica, quanto mai tempestiva, è arrivata per mail stamane, non è l'unica, ho scelto per l'appunto la più sintetica per dare più spazio a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dunque, il tuo intervento era stato già preannunciato sin da ieri per ovvie ragioni di fair play finanziario, insomma, per quello che è successo, ma anche per questa frase di ieri di Galliani che avevo letto in diretta, era arrivata mentre eravamo in onda: tutti parlano di fair play finanziario ma poi spendono come pazzi, punto, noi compresi, punto. E stamattina sono arrivate delle bacchettate dell'UEFA, adesso poi leggerò in dettaglio che cosa ha detto Platini, leggerò la polemica di Wenger, allenatore dell'Arsenal, nei confronti del Chelsea. Ma ecco, giro a te però inizialmente questa domanda di questo nostro ascoltatore Roberto Zona, e cioè: a che punto è arrivato il fair play finanziario? Beh, noi siamo alla vigilia del fair play finanziario. Il 2011 è il primo anno, è stato annunciato il primo anno a partire dal quale il panel di controllo della UEFA dovrà verificare l'andamento dei bilanci delle squadre che poi ambiscono a partecipare alle competizioni europee. Il timing è stato ribadito qualche settimana fa a Nyon, Ci sarà un primo triennio, quindi 2011, 2012 e 2013, nel quale le squadre potranno fare un rosso di 45 milioni, quindi 15 milioni all'anno oppure compensati, ma comunque 45 milioni nel triennio. In totale, certo. In totale. Dopodiché, a partire dal 2013-14, il panel della UEFA verificherà l'andamento dei bilanci. Ci sarà poi un secondo triennio in cui il rosso non potrà essere superiore invece ai 30 milioni e a partire dal 2017-2018 invece non sarà più consentito sforare il pareggio di bilancio se non per 2 o 3 milioni di euro, questo deve essere ancora deciso. In sostanza, da quell'anno, quindi 2017-2018, vigerà il principio per cui un euro incassi e un euro spendi. Chiaramente nei 6 anni precedenti, quelli ripeto nei quali si valuterà sul triennio, bisognerà capire quello che la UEFA vorrà fare. In ogni caso, Platini ha più volte detto che dalla stagione 2013-2014 saranno possibili le sanzioni da parte della UEFA fino ad arrivare all'esclusione dalle competizioni europee dei club più indebitati. Forse sono stato un po' lungo, ma è giusto secondo me a questo punto ribadire quelli che sono i termini e il calendario annunciato da Platini più volte. Questo è il quadro. Come ci sono i comportamenti, insomma, lo vedono un po' tutti, l'hanno visto un po' tutti in questi giorni. No, difatti. Sai che adesso poi ti leggo, non è un comunicato ufficiale, ma insomma ti leggo che cosa l'ANSA ha scritto a proposito di UEFA, cioè che cosa è filtrato ieri da Nyon, dalla sede dell'UEFA. A me ha fatto, più per l'Inghilterra che per l'Italia, ma anche per l'Italia, che poi ha una casistica un po' anomala, a me ha fatto questo effetto. Marco, volevo confrontarlo con te. Cioè, tu sei andato dal medico. Il medico ti ha detto, guardi che lei tra poco si deve mettere a dieta, lei tra un po' deve smettere col vino, faccio per dire, e tu ti sei preso un'ultima sbronza o una penultima sbronza per dire, vabbè, ma tanto poi non posso più bere. Io ho avuto questa sensazione. Hai perfettamente ragione, anche se... Il tutto, a mio avviso, va contestualizzato. Va rimarcato come la Premier League, che è stata un po' a stecchetto quest'estate, ha speso invece in questa sessione quasi 250 milioni di euro, insomma. Sì, è vero, questo è vero. Dunque l'UEFA, io leggo questa agenzia, manda un avvertimento ai grandi club criticando implicitamente gli ultimi colpi di mercato e quindi in maniera non invasiva. Osserva sul suo sito, e quindi è una posizione ufficiale, che il fair play finanziario non impedisce ai club di spendere denaro per acquistare giocatori, ma impone a fine stagione i conti in regola. Sottolinea comunque che non vi è dubbio che i trasferimenti effettuati adesso avranno conseguenze sul pareggio di bilancio degli esercizi finanziari a fine 2012 e 13, i primi anni in cui varrà la regola del pareggio di bilancio, e ricorda che i club conoscono le regole e sanno che l'UEFA è determinata ad applicarle con rigore. L'avvertimento interpreta, l'agenzia sembra rivolgersi in modo particolare alle Premier inglesi e soprattutto a Liverpool e Chelsea, che hanno speso circa 130 milioni di sterline nell'ultima finestra di mercato, con il record che spetta a Fernando Torres e i suoi 58 milioni di euro. Allora, facciamo questa distinzione. L'anomalia inglese da una parte e l'anomalia tutta italiana invece dall'altra. Partiamo dall'Inghilterra, che è la più vistosa. L'anomalia è Abramovich, non tanto il Liverpool, sì, vero. Perché fatti due conti, il Liverpool, che tra l'altro da ottobre ha una nuova proprietà americana, che tra l'altro ha come ha una presidenza diciamo legata ai Red Sox Boston di baseball, nel cui azionariato c'è anche qualcuno dei candidati, parlo di Benedetto, che è uno dei candidati ad acquisire la Roma, e questo è uno diciamo un collegamento che potrebbe far felice i tifosi della Roma della Roma su possibili faraoniche campagne acquiste, ma a parte questo, di fatto il Liverpool ha questa nuova proprietà, ha preso i soldi versati da Abramovich per Torres e ha fatto due operazioni importanti come Suarez e Carroll, che è un giocatore fenomenale, certo. Sarà il futuro, è il futuro centravanti dell'Inghilterra, dell'Inghilterra, e dunque ha fatto un'operazione molto intelligente spendendo poco, in quanto appunto ha incassato circa 60 milioni per Torres. Chi ha speso tanto è il Chelsea di Abramovic. È lì l'anomalia. C'è da ricordare però, come ha sottolineato la stessa UEFA, che il fair play finanziario consente di spendere quanto si incassa, non è che impedisce di spendere. No, certo. Il Chelsea ha un fatturato importante, Abramovic aveva ripianato i debiti, ora spende in questa campagna acquisti. Tutto si spiega, a mio avviso, con la necessità del Chelsea di assicurarsi un posto nella prossima Champions League, che per come si stavano mettendo le cose nella Premier non era poi così tanto scontato. Oggi partecipare alla Champions è fondamentale, se non partecipi alla Champions e perdi un giro hai grosse ripercussioni sul bilancio, e in quest'ottica Abramovic e il suo entourage hanno spiegato questi investimenti. Questo è per quanto riguarda l'Inghilterra. All'Italia ci arriviamo magari subito dopo l'intervallo, perché ormai si sta avvicinando. Il Chelsea, sostiene Wenger, cioè il manager dell'Arsenal, sostiene il fair play finanziario un giorno, dice il Chelsea sostiene il fair play finanziario, poi però un giorno annuncia perdite per 70 milioni di sterline e il giorno successivo ne spende 74 per due nuovi giocatori. Dov'è la logica? Si domanda Wenger. In effetti non è facile da ricavare. Andrea Dolci, che è un manager, un ascoltatore fedele, affezionato e che tra l'altro fa il manager di mestiere, scrive scrive: mi scusi, ma io non vedo grosse implicazioni delle campagne acquisti attuali nel fair play finanziario, purtroppo. In un mondo calcistico che vive alla giornata, i paperoni continueranno a spendere fino a 10 minuti prima dell'entrata in vigore delle sanzioni. A quel punto, quando starà scadendo il tempo a disposizione, venderanno a piene mani, o meglio, si inventeranno qualche artificio finanziario contabile, magari introducendo i derivati sui cartellini. Non è male questo, eh? Non è male, e può essere, ti ripeto, che ci sia anche questa voglia comunque di assicurarsi in questo momento delle posizioni di vantaggio, posto che se il play finanziario ha tanti vantaggi, ha anche il rischio di cristallizzare un po' la situazione, sì. Quindi più ricchi con i grandi ingaggi che vincono e continuano a vincere, potendosi permettere, e le squadre meno preparate, meno dotate dal punto di vista dell'organico e delle risorse, che continuano a restare, insomma, in situazioni di inferiorità. Allora, dopo questo intervallo arriviamo al modello Italia. Non è che non lo conosciamo, ma è sempre bene fare un piccolo ripasso in questa materia. E poi, in finale di trasmissione, ci sarà spazio per la vigilia delle partite di stasera, perché vedo che molti messaggi premono su questo. Avremo molte, molte voci di vigilia da ascoltare, e avremo anche alcune ultime notizie che arrivano dai ritiri. Nel frattempo, i mercati. Sempre in compagnia di Marco Belinazzo, e prima del modello Italia, un aggiornamento Roma. Beh, il caso Roma fa parte del modello Italia, con i suoi pregi e i suoi difetti. A pieno titolo. Domani ci saranno le ultime valutazioni delle offerte vincolanti, c'è l'accordata americana che ha presentato la sua offerta già a New York la settimana scorsa, ne abbiamo parlato, sembrava essere in quel momento la più accreditata, potrebbe essere superata all'ultimo momento dal fondo arabo, o potrebbe essere superata per ragioni di patria dalla proposta italiana, che ha sì anche un appoggio del mondo politico, con una certa vergogna lo si ammette. In ogni caso, insomma, i tifosi della Roma stanno sperando in un rapido rilancio del club, ci sono buone possibilità. Ed è già qualcosa. Dunque, per le altre, sempre nell'ambito del discorso sul fair play finanziario e sul fatto che prima di una dieta severa tanto vale farsi un'ultima buffata, mi pare che non siano stati in pochi a ad applicare questa formula, ma sempre con questa novità che è la, non so, la via italiana all'acquisto, forse, no? Tu l'avevi già più o meno battezzata così qualche mese fa, perché era entrata in voga già da qualche tempo, in estate si era meglio articolata e perfezionata, e adesso è diventato un format, e cioè tu il giocatore lo prendi in prestito più o meno oneroso con diritto di riscatto. Il vantaggio. Diritto barra obbligo di riscatto. Diritto barra obbligo. La formula nuova, questo leasing di calciatori, tra un po' abbiamo detto ci arriverà anche al baratto. Sì, più o meno. Più crudele. Ecco, però. Io credo che, insomma, si debba partire da una considerazione. Molti hanno detto che questo è stato un calciomercato di gennaio condizionato dalle scelte del Milan. Con ciò alludendo al fatto che l'esigenza del Milan di vincere sarebbe legata anche a bisogni politici della proprietà. Certo, può essere vero, insomma, secondo me coglie parzialmente la realtà, nel senso che il Milan si è trovato in un campionato molto particolare ad essere in testa e con molti infortuni, ecco, forse gli infortuni più che altro hanno condizionato la campagna acquisti non solo del Milan, e dunque ha fatto delle scelte, insomma, ingaggiando giocatori anche di non tenera età come Van Bommel per puntellare il proprio organico e cercare di arrivare in fondo, insomma, a vincere il campionato, perché è parecchio tempo, insomma, questo porterà ovviamente indubbi vantaggi economici a partire dalla sicura partecipazione alla Champions. A seguire si è mossa anche l'Inter con analoghe esigenze. Moratti era stato il primo grande presidente a sposare in pieno la causa del fair play finanziario e non poteva durare, no? Evidentemente. E non poteva durare, i tifosi poi non gliel'hanno perdonata. Poi, insomma, la gestione Benitez ha qualche modo contribuito a fargli cambiare idea. Certo. E questo è il quadro. In questo quadro, appunto, si inserisce questa formula. Ora, ti dicevo prima, hai sentito quella mail, insomma, Radio 24, è ascoltata da molti manager, insomma, da molta gente che con l'economia ci lavora e quindi ne mastica, come è ascoltata anche da persone come me, per esempio, invece, che insomma, con l'economia e la finanza hanno un rapporto leggermente più complesso. Allora, quali sono i vantaggi e i limiti di questa formula del prestito con diritto o dovere di riscatto? Ovviamente consentono di evitare nell'immediato di appesantire i bilanci e di rinviare, come dire, scelte importanti in un secondo momento, e soltanto quando si è acquisita la certezza che l'affare sia buono, insomma, è conveniente. Sì. C'è da dire che appunto in ciò si nasconde un grande rischio, perché l'obbligo di acquisto non è propriamente previsto da nessun regolamento federale. Si è parlato appunto di una sorta di gentleman agreement tra i presidenti o tra i dirigenti. Sai che però se cambia il dirigente, cambia la proprietà, c'è il rischio che tanti accordi non vengano rispettati. La Juve, per dirne una, dovendo riscattare tutti i giocatori che ha acquisito con queste formule, insomma, si ritroverà con nell'impossibilità anche a giugno, insomma, di fare grandi investimenti, a meno che non rinunci a tutta una serie di operazioni. Nel senso che a questo punto la formula verrebbe meno, insomma. Però io ti interrompo un istante, perché ho sentito nelle tue parole un'eventualità che forse non è ancora accaduta, ma dato che il nostro il paese che esplora il futuro da tutti i punti di vista, potrebbe non essere male. Cioè, tu ci stai dicendo o temi o sospetti che un giorno possa anche accadere che, faccio un esempio concreto, Marotta ha firmato le operazioni di prestito con diritto di riscatto o dovere di riscatto col Catania. Il giorno che Marotta non è più il manager della Juventus, la Juventus può dire: ma questo è un accordo che ha fatto Marotta. Questo potrebbe accadere? Come come sempre sei bravissimo a esemplificare quello che io cerco di nascondere. Ah, ecco. Beh, non è male però questo. No, a parte gli scherzi, allora, io penso che siccome parliamo di professionisti e non di sprovveduti, ci siano delle scritture private che in qualche modo corroborano dal punto di vista giuridico queste operazioni. È chiaro però, nel momento in cui cambia la proprietà di una società, e abbiamo assistito a dei cambi di proprietà in corso, stiamo assistendo a questi cambi, cambia la gestione, i conti sono quelli che sono, il fair play finanziario incombe, qualcuno potrebbe ben pensare di fare un voltafaccia e dire: beh, signori, qui non ci sono più soldi, i giocatori non possiamo acquistarli, e quindi i club che hanno ceduto in prestito dei giocatori, sperando anche di liberarsi magari di ingaggi importanti, si ritroveranno invece a dover fare i conti con queste situazioni. È un'eventualità, però insomma è meglio che qualcuno ci pensi, insomma. Comincia a pensarci. Io credo che tu abbia disegnato oggi un altro scenario possibile, no? Abbia aperto una nuova potenziale direttissima nel calcio italiano, perché se davvero questa cosa potesse accadere, beh, insomma, più o meno non se l'ha vista, se non a livelli molto bassi o infimi. È tale in effetti la mole, no? di il numero di contratti che da un po' di tempo a questa parte sono stati firmati, da far pensare che, adesso non voglio dire una bolla che possa scoppiare, però sono davvero tanti, ho l'impressione. Beh, qualche mese fa, Gigi, la Covisoc ha messo in allarme le società, aveva, come dire, avvisato formalmente, perché obbligata, i tre club che sono quotati in borsa sull'impatto finanziario di questi contratti, ma è chiaro che lanciava un messaggio a tutto il sistema. Il meccanismo è stato ripetuto anche in questa sessione di mercato. È chiaro che la deregolamentazione che si è voluta con il nuovo contratto collettivo dei calciatori, che dovrà essere firmato a giorni, perché ricordiamo che non è stato ancora firmato, potrà creare, se vuoi, un cuscinetto di regole per assorbire anche queste situazioni. Ma bisogna fare i conti con un nuovo sistema, anche dal punto di vista patrimoniale e finanziario. La Covisoc, tra qualche mese, quando prenderà in mano questi bilanci che hanno questi contratti, insomma, delle risposte dovrà darle. Spero che le dia, per una questione di trasparenza, insomma. Certo, auguri alla Covisoc e grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Chiudiamo questo collegamento con il Sole 24 Ore. Oggi non era un contatto di persona, ma era un collegamento, e continuiamo con la vigilia delle partite di stasera. Anzi, prima con una finestra su quello che è accaduto ieri in Europa. Non ho disturbato il ministro degli esteri per un paio di minuti e per un paio di risultati, però qualcosa di significativo in Inghilterra ieri sera è successo con il turno di Premier League, giocato in due serate. I match più importanti erano ieri. La vittoria del Chelsea per 4-2 fuori casa è un buon segnale, indubbiamente di conferma di ripresa per Ancelotti, anche se poi, visti i gol, ci sarebbe il lavoro per i portieri, io credo, in Inghilterra in questo periodo. Torres, il nuovo acquisto, era in tribuna. Ha vinto lo United con l'Aston Villa, ha vinto anche l'Arsenal con l'Everton. Ma al di là dei risultati, c'è questa nuova moda dei tifosi, oggi ben illustrata dalla Gazzetta dello Sport, con il titolo "Se mi lasci ti brucio". Cosa è successo? È successo che ieri sia a Liverpool sia per Torres che per Carroll sono state bruciate le maglie dei giocatori, e cioè questo trasferimento a sorpresa e forse anche a tradimento di Torres, che era un idolo dei tifosi del Liverpool, insomma, ha suggerito a qualcuno di consumare questo rito, per cui si vedono girano sul web un sacco di immagini di ragazzi che riempiono di benzina una maglia numero 9 del Liverpool, le danno fuoco, eccetera. Allora, speriamo che la cosa si fermi lì, perché già non è una bellissima cosa, e speriamo che si fermi e che la protesta non vada oltre. Ma lo stesso è accaduto per Carroll, perché Carroll, che è passato dal Newcastle appunto al Liverpool, ha prodotto la stessa reazione. Anche in quel caso, maglie riempite di benzina, ovviamente in diretta video telefonino piuttosto che chat o che non so che cosa, e avanti. E poi queste immagini che girano sul web, e che comunque, pur non essendo nulla di guerresco per il momento, un bel vedere sinceramente non sono. Probabilmente in Inghilterra hanno ancora più forte che da noi il concetto di, non di appartenenza, ma di senso di appartenenza e di affezione ai giocatori. Da noi ormai siamo abituati a vederli cambiare 3 maglie a stagione in media, e quindi ci facciamo un po' meno caso. Ultima parte dell'appuntamento di oggi, aperta come sempre dalla rubrica di Nicola Filippone. Sembra ieri. 2 febbraio 1964. Al termine della gara Bologna-Torino, vinta dagli emiliani per 4-1, viene effettuato un test antidoping destinato ad aprire scenari clamorosi e a generare polemiche feroci. Il mese successivo si saprà che Pascutti, Fogli, Tumburus, Pavinato e Perani, tutti e 5 del Bologna, sono risultati positivi alle anfetamine. Arrivano le squalifiche e il Bologna, impegnato in un testa a testa con l'Inter, subisce una penalizzazione di 3 punti. Parallelamente alla corsa a scudetto, scatta una battaglia legale altrettanto palpitante, al termine della quale la federazione ritira tutte le sanzioni a carico della formazione allenata da Bernardini. Il Bologna potrà così giocarsi lo scudetto con l'Inter fino allo spareggio vinto a Roma il 7 giugno per 2-0. Posso garantire che quel tardo inverno e primavera del 64 fu davvero qualcosa che sconvolse il calcio italiano dalle fondamenta. Mi spiace per i vostri interventi di oggi, però io credo che vi sfogherete domani con i commenti alla giornata di campionato. Oggi trovo più documentale ascoltare un po' di vigilie delle partite principali, anche delle novità, soprattutto di questa serata. Credo che la principale sia quella rappresentata da Matri, che dovrebbe proprio debuttare stasera a Palermo. Allora sentiamo Matri sul suo arrivo alla Juventus. Io ero al doping e lui, passando di lì, mi ha detto: dimmi che non vuoi andare, io non vado a Milano domani. E io ho detto: presidente, è la mia occasione, è l'occasione della mia vita. È quello che rincorro da quando ho iniziato a giocare. Poi per battuta gli ho detto anche: siamo dello stesso segno zodiacale del leone, quindi abbiamo più o meno le stesse idee. Lui mi fa: ti capisco e farò di tutto per accontentarti, anche perché comunque in questi anni mi hai dimostrato attaccamento. Era ovviamente il resoconto di Matri, tra l'altro brillante e discretamente spiritoso, del colloquio di domenica scorsa con Cellino, prima della decisione del trasferimento di Matri alla Juventus. Le partite di stasera, dopo lo 0-0 di Milan-Lazio, sono Cesena-Catania, Chievo-Napoli, Fiorentina-Genoa, Palermo-Juventus, Parma-Lecce, Roma-Brescia, Sampdoria-Cagliari, Udinese-Bologna. Domani sera il posticipo Bari-Inter. E Palermo indubbiamente il match clou di stasera. Allora sentirei anche come Delio Rossi, in una conferenza stampa discretamente imbarazzata, se l'è cavata a proposito delle dure censure di Zamparini. Dispiace che poi magari vai a vedere che le ultime partite non avevamo preso gol, però non ho letto dichiarazioni diverse. Penso che il fatto di saper fare la fase difensiva penso che la possa fare anche qualsiasi allenatore. Il fatto magari di sapere insegnare, magari anche a offendere, non è da tutti. Ognuno, l'ho detto prima, quello che dice è scritto lì. Io ne piglio atto, né più né meno. Io vado avanti per la mia strada, indipendentemente se ci sono battute in una maniera o battute in un'altra, anche perché io ho un obiettivo, quello di portare più in alto il Palermo con la squadra che mi è stata messa a disposizione. Quindi Palermo-Juve, quindi per esempio anche Chievo-Napoli. È ovvio che il Napoli, dopo il pareggio di ieri sera del Milan, abbia una ragione in più per provare a vincere a Verona e arrivare a 2 soli punti dalla capolista, però non è mai una passeggiata giocare col Chievo, sul suo campo o fuori, in questo caso sul suo campo. Sentiamo Mazzarri. Allora, intanto c'è da dire che i complimenti fanno piacere, ma credo che questi ragazzi ormai sono abituati, perché non è solo l'ultima partita che hanno fatto bene interpretando il calcio in un certo modo. C'è da considerare la forza del Chievo nel proprio campo, una squadra che comunque il Napoli ha sempre sofferto, è una squadra che ha caratteristiche tali, molte volte ci ha messo proprio in difficoltà, no? Al di là che poi qualche volta si è vinto, qualche volta abbiamo perso, proprio come è successo all'andata qui sul nostro campo. Quindi io penso più alla forza del Chievo, voglio sottolineare che ha un attaccante come Pellissier che ha scelto lui di non andare via da Chievo, ma è un attaccante di altissimo livello e bisognerà stare molto attenti. E tutta la rosa e la squadra del Chievo sta facendo un campionato importante, non ultimo la partita che ha fatto a Brescia, dove ha fatto io l'ho vista questa partita, ha fatto una grande gara. Ci sono due incroci salvezza diretti anche stasera, uno è Cesena-Catania e l'altro è Parma-Lecce. Parma-Lecce dove debutta, potrebbe debuttare con la maglia del Parma niente meno che Amauri. Il giudizio di Marino, allenatore del Parma, su questo nuovo acquisto. È un giocatore che può fare la prima punta, è un giocatore che può giocare vicino a Crespo con un giocatore dietro le punte. Dietro le punte credo che come ruolo quello che si avvicina di più è Giovinco, per cui non ci stravolge nessun piano, anzi ci dà qualcosa in più, perché chiaramente come giocatore d'area di rigore, cioè diciamo come fiuto del gol, è quello che si avvicina di più a Crespo, diciamo, come, quindi diciamo abbiamo un'alternativa in più, una possibilità in più, possono giocare insieme, per cui questo è un bel problema. Beh, insomma, sul fiuto del gol di Amauri si potrebbe ragionare, no? Visto che oggi è il 2 febbraio, ce lo ricordava prima Nicola Filippone, e il suo ultimo gol in campionato risale al 14 di febbraio di un anno fa. Quando lo ricordo sempre per contestualizzare e per non dimenticare, quando c'era un commissario tecnico della nazionale italiana che stava facendo o suggerendo di fare carte false pur di portare Amauri in cittadinanza italiana, in nazionale poi, e poi a trascinare l'Italia verso il mondiale sudafricano. Il ritorno di Iachini a Brescia, altra squadra combinata male nella lotta per la salvezza, reduce, lo ricordava Mazzari prima, da questa batosta in casa contro il Chievo, prova a ripartire stasera Iachini, che è stato appena richiamato da Corioni sulla panchina bresciana, certo in una partita non facile, visto che gioca all'Olimpico giallorosso. Iachini. Come sono stato contattato dal presidente? Sinceramente non ho potuto dire assolutamente di no, per diversi motivi. Primo perché, chiaro, il grande affetto, legame che mi lega a questa società, a questa piazza, a questo ambiente, nello stesso tempo con la consapevolezza di sapere e di conoscere questi ragazzi, questa squadra, e dai quali mi aspetto tanto, perché so che nelle loro corde, nelle loro potenzialità, nelle loro possibilità, il fatto di poter insieme compiere un'altra impresa. Il vantaggio che il Brescia può avere stasera rispetto alla Roma è quello di una maggiore concentrazione, perché la Roma indubbiamente è un po' distratta da tutte queste voci sui nuovi acquirenti societari, ma anche da qualche così riflessione interna a voce alta che non vede una particolare sintonia, una volta di più, tra il direttore sportivo Pradè, per esempio, e l'allenatore Ranieri, a proposito del vero valore della rosa della Roma. Sentiamo Ranieri. Loro erano più forti, non condivido le parole di Pradè. Loro erano più forti, hanno più soldi da investire, noi stiamo in un momento dove non possiamo tirar fuori neanche un centesimo. Beh, io credo che ci siano anche grossi investitori italiani, perché quando Berlusconi è entrato ha fatto molto ma molto bene. L'importante è avere soldi. Abbiamo visto quello che ha fatto il Chelsea adesso, in questo mercato di riparazione per il mio amico Ancelotti. L'importante è avere dei soldi e poi avere delle persone giuste al posto giusto. Arriveranno capitali esteri? Ben vengano, ben venga una strategia, ben venga un modo di lavorare per il bene della Roma. Contro le squadre piccole ci potrebbe essere proprio un abbassamento di concentrazione. Questo sarebbe l'errore più grande che noi in questo momento possiamo fare. Guai ad abbassare la guardia. È una squadra che sta lottando per la salvezza, per cui farà di tutto per renderci la vita difficile, per aggredirci, per non farci ragionare e per ripartire in contropiede come ha fatto in casa. Chiudiamo con la vigilia di Del Neri alle prese con la crisi della Juventus e con una trasferta difficile come quella di Palermo. Il mercato di Juve vale per quello che non serviva. Mi sembra che abbia operato molto bene, non do votazioni perché non sono uno che è abituato a dare voti, più giudizi, quindi il mio giudizio è ottimo perché i giocatori che mancavano nel settore, vuoi per infortuni, vuoi perché le caratteristiche sono diverse, per cui si può adesso dire che abbiamo compensato così la perdita di Quagliarella con un inserimento importante, tipo Matrica, delle caratteristiche chiaramente diverse da Toni, e finalmente ora possiamo contare su una chiave d'attacco che può darci una mano in chiave di finalizzazione e di potere così di forza d'urto verso le porte avversarie. Grazie allora a Fabio Cantadoni in regia, a Franco Piantanida in redazione, appuntamento a domani.